Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Care amiche ed amici, buonasera. Buonasera da parte di Gesi. E di Antonio. Antonio, siamo già in maggio. Oh, qui il mese delle rose corre velocemente. Corre. Beh, sì. Insomma, certo, mi sembra... ieri che ti ho detto l'anno scorso siamo già in maggio. Tempus fugit, come sempre. Ecco, appunto. Va bene, allora buonasera anche a te. E adesso andiamo con... un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione con il podcast, senza dimenticare un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Certo, saluti a loro che sono importanti. Allora, stasera, Antonio, abbiamo un ospite virtuale. Esatto. Avremo il signor Riccardo Cappellozza di Battaglia Termine. Battaglia Terme, che è soprannominato il Barcaro, perché lo spiegherà poi lui quando lo sentiremo per telefono, perché prima ci ascoltiamo una bella canzone. Parliamo di fiori, dai. Dall'antologia, l'altra volta vi ho fatto ascoltare una canzone tratta dall'antologia di canzoni fiorentine, questa volta ascolteremo una canzone tratta dall'antologia di canzoni romane. Allora venite a Campo dei Fiori, canta Rosetta Fucci. E torniamo in studio e proseguiamo con la nostra trasmissione. Come annunciato, abbiamo al telefono il nostro ospite, cioè il signor Riccardo Cappellozza, soprannominato il Barcaro, e che è nel museo, adesso che ci aspetta nel telefono, il museo che lui ha fondato. Signor Cappellozza, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Ah, vi stavo tanto, tanto. Bene, mi fa piacere. Adesso... Mi dica. No, perché io ho già passato 82 primavere, capisci? Ah, no. Bene. E sono pronto a lasciare il posto ai posteri. No, mai questo, dai. Bisogna mettere... Tranquilla, tranquilla. Allora, signor Riccardo, lei ha soprannominato il Barcaro perché ha fatto il Barcaro, vero? Sì, di tradizione, mio nonno, mio padre. Ah, siete proprio la generazione di Barcari. Sì. E poi sono... lei... mi dica. Noi siamo di una tradizione di Barcari che il mio nonno è venuto a battaglia nel 1925 perché loro erano Barcari dell'Adige, del fiume Adige, che si chiamava Adesanti dell'Adese, Adesanti. E sono venuti a battaglia nel 25 perché mio nonno lavorava per il conte Cini di Monselice. Ho capito. E lei ha fondato... le barche e facevamo i trasporti per i conte Cini. Dica. Lei ha fondato un museo della navigazione. Diciamo che io, appena finita la seconda guerra mondiale, avevo 13 anni e sono andato in barca con mio padre. Perché? Perché io sono di una famiglia patriarcale, tre fratelli, tre spose, 15 figli. Bene. Quando eravamo a tavola eravamo in 23 persone. Ho capito. Allora io sono andato in barca appena finita la seconda guerra mondiale per aiutare mio padre, perché le barche erano state disagiate dai mitragliamenti, che i caccia mitragliavano tutte le barche che erano lungo i fiumi, e le barche erano danneggiate. Ora mio papà mi ha chiesto se davo dare una mano, magari per un anno, perché i primogeniti delle famiglie patriarcali avevano il diritto di andare a studiare, e a me mi toccava a me. Certo, perché... un anno per aiutare mio padre. Quando che ti metti il piede in barca non ti scendi più. E adesso che si sarà in pensione, che cosa fa di bello? Si occupa? Beh, diciamo che dal 1945, che ho iniziato facendo il mozzo nella barca di mio padre, il mozzo è quello che impara il mestiere. Eh sì. Di conseguenza io adesso ho 82 anni quest'anno, va bene, e sono 68 anni che lavoro, prima con mio padre, quando è terminata la navigazione nel 1962, da capitano di una nave sono andato a fare il manovale nelle officine di battaglia. Ecco, quindi sì. Per me è stata una cosa, uno stress straordinario, un trauma, perché da capitano di un'imbarcazione di 32 metri da 300 tonnellate, andare a fare il manovale per portare a casa una misera paghetta è proprio una umiliazione anche. Sì, però sì. Comunque noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando da Battaglia Terme. Lei è a Battaglia Terme, vero? Il discorso del museo, quello viene dopo 20-25 anni che io ero salito in barca. Nel 62 mi sono sbarcato, però la passione si incarna, è un mestiere che è la passione del navigare. Noi navigavamo i fiumi, ma era tutta una poesia, le albe, i tramonti sui fiumi, sul Po, venire levato del sole, il tramonto del sole sul Po, su tutti i canali, sulla laguna di Venezia. E navigare, eri all'aria aperta, allora si andava a vela, si andava spingendo con i remi, remi da 8 metri, c'era il traino dei cavalli, noi facevamo anche, trainavamo la barca come i cavalli, saltavano in terra e sì. Con la sana, c'era una piccola corda, una piccola fune, tiravano le barche con le spalle, perché quando si andava a vela, poi il vento ci lasciava per strada, per raggiungere altri 3-4 chilometri facevamo tutto a spalle. Fatica straordinaria. Sì. La durezza di questo lavoro. Capisce? Sì. È un mestiere che non si può più dimenticare. Beh, immagino. Allora, quando io sono andato a lavorare nelle officine di battaglia, nel 79, 77, 78 hanno fatto il corso delle 150 ore per dare la terza media di recupero agli operai. Io ho frequentato questo corso, se non che allora c'era un certo Elio Franzin di Padova, va bene, che era professore, che ha fatto questo corso, e mi ha domandato gli altri ragazzi, che insomma, sì, ragazzi che avevano già una certa età, e dice: conosci la storia della battaglia? Boh, Boh, io avevo due sciucche senza me voi. Nessuno di noi, nessuno di noi altri sa la storia del nostro paese. Nessuno, come però, questo Elio Franzin ha parlato, ma è sapere la storia del canale di battaglia. Allora, parlare del canale di battaglia, a me mi sembra di risare a Rece, perché se con una via 20 anni, certo, quando che ti parli di acqua, è Rece da come un muso, cioè certo, non più da su. Certo. E allora io sono stato attento e lui mi ha detto, guardate sui cassetti di casa, se trovate delle fotografie, e così tutti che abbiamo fatto, e ognuno va a portare una fotografia, do. Da queste fotografie abbiamo fatto a battaglia una mostra fotografica che ha avuto un grande successo. Da questa mostra abbiamo fatto addirittura un catalogo, i canali e burci, che questo canale, questo libro ha avuto 3 critiche internazionali. Addirittura. Il primo è stato nell'81 il Mariner Milord di Londra, che è una delle grandi critiche europee, nell'84 i tedeschi, nell'87 gli americani, 6 editori ce l'hanno copiato. Allora che abbiamo detto fra notte ieri un gruppetto di editori che vogliono fare qualcosa, era che abbiamo indovinato, perché abbiamo fatto un'opera che è stata premiata. Richiesta. Allora hanno scoperto sul libro, sul catalogo che io ho dato la consulenza, hanno scoperto che il nostro linguaggio non esiste su 6 dizionari della marineria italiana. Non esiste su un dizionario della marineria inglese del 700, che sarebbe non più ultra come linguaggio marinero. Da questo libro, allora abbiamo pensato di cercare e salvare altre parole. Allora cosa è venuto fuori? Che io sono andato dai vecchi barcari per recuperare i pezzi, perché ogni barcaro che è rimasto senza barca a casa si è portato un pezzo per ricordo. E io sono quella persona che è andata a tutti i barcari di battaglia prima e dicevo, sta attento vecchio, con temore ti che il tuo quarto fiore lo butta via, dammelo a me. E così abbiamo raccolto tanto materiale, avevamo un camion rimorchio del ferro vecchio. Però cosa succede? Che il bibliotecario che avevamo allora, un certo Franco Sandon, sì, che è stato un grande personaggio per battaglia, perché ha fatto una biblioteca straordinaria, va bene, adesso è andato in pensione. E allora mi ho detto, sta attento, mi dico, per pover parlare bisogna che raccura questi tocchi. È così che abbiamo fatto. Però cosa succede? Che avevamo una catasta di materiale e mi viene un'idea. Ciao Franco, dico, e con tutta sta roba fare un museo? E sto mio amico, cosa che ho fatto? Se che sei in piedi e che ha scorrato la testa. E allora amico pensa che gli era un assenso e mi dava l'ok anche per pensare di fare un museo. Sì. Mi sono stato 3 notti senza dormire, va bene, e sulle 3 notti mi segnò l'idea di dire, beh, se mi riesce devo riuscire a fare una bella roba. Certo che non avrei mai e poi mai immaginato che mi pensavo di fare un museo a livello paesano, insomma, una roba da paesani. E invece segnò fuori che ai primi albori che mi cominciavo a restaurare questo materiale, perché dovevi pensare che per fare questo, io dopo la raccolta del materiale veniva dentro i miei amici e mi diceva, ciò cosa che in effetto di tutto sto ferro vecchio, ma mi sapeva cosa che poteva venire fuori. Ma io non ero un restauratore né di legno né di ferro. Allora nel mio mestiere, che mio papà mi diceva, sappi che il nostro mestiere di barcaro non si è mai imparato abbastanza. Io ho 82 anni, imparo ancora cose che mi dice i studiosi, che mi dice persone che ne sa più di me. Loro lo sanno in teoria, mi ho tante robe in pratica. In pratica, certo. Di conseguenza cosa succede? Che sono andato a farmi insegnare come si fa a restaurare il legno, come si fa a restaurare il ferro, e mi sono messo qua da solo, in questo, nell'ex macello che dopo abbiamo fatto questo museo, 5 anni. Va bene, a fregare i tocchi di legno e di ferro, va bene, pensa che il legno bisogna fregarlo con la paglietta grossa e paglietta fina, vai a dentarlo, e dopo dentarlo che si asciuga, darghi a cera, e lì per 5 anni, rinunciando a 3 milioni al mese, 2,7, 2,8, 2,9, va bene, ho fatto tutto questo lavoro. Cosa succede? Che le prime visite che la gente veniva al museo ancora non c'era, ma io avevo i tocchi che avevo restaurato. Ciao Riccardo, che bello, ciò che bello, ciò che bello. E ti capisci che veniva perfino l'università. Pensa. E l'università ha detto, Capeossa, che sei sulla strada giusta, non sta a fermare. E c'è un amico che ha fatto tanti incitamenti. Aspetta un attimo che se fermiamo un momentino, che ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da lei. La canzone seconda in programma è Cuore Cuore, è una cantante, Paola Angeli, che è stata una proposta, cioè una delle proposte giovani del lontano 1994. L'ascoltiamo. Parla con me questa notte che ormai sta finendo così. È da tempo lo sai che ti chiamo ma tu non rispondi. Perché? Guardo il mondo intorno a me, io da sola che senza un perché. La mia rabbia cresce, sai, come un canto scoppierà. Cuore, cuore, tu dimmi dove vai, io ti seguirò. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Riccardo per un affascinante racconto su questo museo della navigazione fluviale. Signor Riccardo? Ecco, sono qua. Allora, diciamo che io avevo 17-18 anni, mi sono permesso, mi sentivo un po' uomo e mi sono permesso di fare una osservazione a mio papà. A fianco a mio papà era il fratello più giovane, mio zio Demetrio. E lui ha sentito che ho fatto questa osservazione a mio padre e lui mi ha detto: piccolo, vieni qua, ascolta, mi dice, e mega tira in parte 3-4 metri e sull'orecchio mega dito: piccolo, che sia la prima e ultima volta che ti fai una osservazione a tuo padre, perché tuo padre è il re dei barcari. E faccio, amica, sta roba mi si resta impressa ancora adesso, insomma, non mi avevo più dimenticato. immagino. E pensa che mio papà è andato in barca a 9 anni perché, per bisogno di famiglia, perché era una famiglia numerosa, non ha neanche terminato la terza elementare. Però mio papà, cosa succede? Che mio nonno, quando che la barca gli era ferma, gli diceva a sto mio papà: piccolo, mettete sotto prova, fa un po' di conti in poche di tabelline, che quando che te viene grande, te che hai bisogno di sapere di fare do più do. Sì, e allora mio papà si metteva sotto coperta, e mio nonno gli era da solo appena fuori dallo sportello, no? Ascoltava quello che diceva sto puteo, no? E ora il mio papà diceva: il 5 nel 7 mi sta, e il 7 nell'11 mi sta, e il 9 nel 15 mi sta, finché mio nonno per tramortire, cioè svegliare fuori sto toso, ci sta che a vacca de tomare, nel nostro gergo. Sì, certo. Era mio papà se cascorlà, no? Beh, mio papà a 14 anni era già capo barca. Mio papà faceva tutti i conti di famiglia e che aveva una scrittura, e mi dicevo a mio papà, fra di me, quando vedevo la scrittura di mio papà: guarda sto nato Don Cande, mi pare come che scrive, meglio di un scrivano, mica che ho fatto la quinta, la sesta, noi eravamo a scrivere come mio padre. Però a mio papà gli era buon fare i conti, che un geometra del genio civile, noi eravamo buon fregarlo. Ma ci sono sì quelle persone che riescono a fare i conti. Grandi capacità. Sì, ma mio papà, diciamo, come uomo in vita sociale era un uomo comunissimo, però nel suo mestiere era un Napoleone, è stato calcolato un Napoleone della navigazione interna. Proprio era un maestro indiscusso, lui sapeva fare tutto. Allora mi sono anche orgoglioso di questa persona, perché qualcosa mi ha insegnato a me. Certo, e lei ha insegnato ai suoi figli? No, a me fiori no, cara, perché mi fiori tutti scienziati. Ho capito. Mi fiori tutti scienziati, hai fatto scuole altre ore. Ho capito, quindi non si tramanda. No, c'era mia figlia che aveva un po' di passione di quello che facevo io, ma l'ho saputo qua nel Padovano, che era omoni, e si è trovato un mianese e si è andato via. Ah, quindi... E lo capisci che ho perso anche la fiore. Quindi siamo proprio... Sì, sono restami solo. Comunque, tornando al discorso, sì, mi spiego, tutte ste robe, da cosa nasce cosa, mi spiego, mi sono stato in città tanto su quando che mio cominciava a fare ste robe, e facevo con una semplicità, però dopo passa una persona, te dà, addirittura uno mi ha detto che sono un personaggio, che tu capisci? Che è una persona straordinaria, che sono una persona importante, e mi dico, vabbè, dico... E mi continua, ma dopo man mano che mi facevo sta roba, vedevo che riuscivo a fare delle robe che non avrei mai immaginato a mettere assieme, no? E dopo da cosa nasce cosa, siccome quando parti dall'1, 2, 3, 4, 5, 6, te vai a 100 e te hai fatto tutta una scaletta dei numeri. Certo. E mi, man mano che producevo, che restauravo questo materiale, vedevo che veniva fuori una roba straordinaria. Tant'è che io non avrei mai immaginato di riuscire a fare un museo. Oggi siamo a livello europeo mondiale. Quanti anni ha questo museo? Adesso che si è aperto ufficialmente dal 99. Insomma. Era stato aperto 2 anni prima, ma non ufficialmente, insomma. Ma amico, ho cominciato dal 79. E ora questo museo è importante perché? Perché quando i barcari che sapevano che tutti i barcari della Val Padana che sapevano che questo museo era unico in Italia. Sì, beh, immagino. E allora veniva a trovarmi. Oh, ricordo, guarda cosa che ti hai fatto. Anche a me casa con un tocco. E la settimana dopo mi portava i tocchi. Quindi la ricchezza di questo museo, cioè, non solo delle mie ricerche, delle mie fatiche, delle mie robe, anche proprio... Dei contributi. Il contributo, io queste cose qua le ho scritte, perché guarda che mi ho scritto, cioè ho dato la consulenza al libro Canali e Burci, che ha avuto 3 critiche internazionali, ho fatto l'ultimo dei barcari qui Mescarabocci, qualche professore che ha fatto un bel libro, il libro dell'ultimo dei barcari. Ma perché mi sono l'ultimo dei barcari? Sono l'ultimo dei barcari perché come go sbarcare nel 62, dopo quasi 20 anni di navigazione, mi go sbarcare senza patente, perché noi altri eravamo figli dell'arte. Non che era patente come un corte, monti su standard, bisogna che abbia patente. Tutto. E a patente era l'arte che ti insegnava a topare, o il capitano della barca. Sì, no, non c'erano studi particolari, insomma. Sì, ma pensa che nel nostro mestiere bisogna fare 100 mestieri in uno solo. Te che da aggiustarti a barca, fare galafattaggio, te che da caricare a merce, saper ricevere a merce, saper consegnare a merce, domie e quintali de sacchi, non sei uno. E non anche scaricare i miei sacchi a bordo le navi greche che portava via l'urea, il nitrato ammonico, la roba che portavamo via dai stabilimenti di Ferrara. Bisognava contare i sacchi, perché le imbragate che venivano su dalla barca, gli poteva essere 20 sacchi, 18, 19, mi spiego? Sì, sì. E ora con i greci, no, contavi mi sacco, deca sen, deca do, deca deca tria, deca tessera, deca pen, deca efti. Cioè, chi impara anche i numeri greci? Non mi dica che lei sa anche i numeri greci. Ah, sono assieso ormai. Ah, sì? Guarda che adesso qua non puoi dare del T, non me lo puoi dare nessuno. Perché divento cattivo. Ma ecco, allora ma il suo museo è molto frequentato, allora diciamo che adesso c'è un po' di crisi anche lì, un po' tanta, diciamo, ecco, tanta crisi, perché qua è un museo che non si paga molto, perché quello che viene dentro lo paga neanche gli schede a luce che consumiamo. Te che domandi 3 euro e torna in drio. Oh, mamma mia. E domandi 3 euro, sì, però se sapessero quello che c'è qua dentro, ne pagheria anche 10. Ecco, il tesoro proprio, ecco, della memoria. Questo museo, no, ve lo dico solo in due parole, de venu giornalisti inglesi dalla Scozia, gli sta qua 3 ore con me. Dopo 3 ore cosa hai fatto? Gli ha scritto sul libro delle firme, quaderno delle firme, eccezionale, unico, imperdibile, una risorsa nazionale e internazionale. Allora viene una signora inglese, magistrato donna inglese, sta 4 ore con me, alla fine scende giù dai sky e ora mi dice: sa signore, che se lei questo museo, invece di farlo a battaglia, l'avesse fatto in Inghilterra, la regina Elisabetta l'avrebbe fatto share. Mi non sai anche cosa vuoi dire share. Hai detto capito? Baronetto. Baronetto, sì, ma avevo capito dopo. No, perché qua è una scuola continua, no? Ecco. Perché ognuno mi dice la sua. Sì, di conseguenza, ciò, mia, è soddisfazione non grandi, poco. Esatto. Dopo succede qua un capo redattore di un giornale di Milano, sta 4 ore con me, e dopo 3 ore cosa dice? Questo piccolo museo è un gioiello di storia e cultura. Raccontata la storia del suo fondatore, sarebbe un gioiello ed è invece un diamante nella pianura veneta. Addirittura? Sì. Che soddisfazione. Ho detto che sono il pisciore del mondo. Di soddisfazioni, vero? Sì, ma aspetta. Ma allora ti pensa che mi... lavora 30 anni senza avere nessun riconoscimento. Perché quando che la signora inglese mi ha detto e magari ha fatto share, dico, sta tenda qua battaglia a fare un museo così, se come aver che grattava qua al muso. E diciamo che pensa che dopo 33 anni ho fatto atto di donazione al mio comune. Che se io vendevo a Padova ci pago centinaia di milioni, ma mi scherzo, non è che mi interessa, non so, un affarista come Berlusconi mi basta che mi avere il caffeato, un piatto di pasta asciutta e siamo a posto. No? Lei non è venale, ho capito. La soddisfazione di fare robe fatte bene. Sì, ma dite che da pensare che qua abbiamo il plauso di tutta Europa. Questo è. Allora mi che, cioè, qualcosa di... DNA de me pare, parlaria che fosse dentro di me, no? Beh, certo. Di conseguenza, mi studio e robe che mi studio, ho inventato tante robe qua dentro che la gente non crede neanche. Ad esempio? E ciò, penso una roba e si è fatta. Dopo tanti anni che mica aveva diversi modelli, perché ho di modellini che è la fine del mondo, va bene? E mi viene in mente, perché ho lottato all'inizio per 3-4 anni per portare a casa da Verona un modellino di un burcio, no, una barchetta che ha fatto lo squero Pescantina di Verona, i cobelli che ha fatto il cantiere navale Pescantina di Verona nel 1400. Poi, i migliori costruttori italiani di barche. Qualche esperienza in laga, quindi. Sì. Cioè, ho visto sta barchetta, mi ha segnato i penalti di Oca, perché era perfetta in tutto. Bene. E non so sta buon farla, se non che 2-3 anni fa a me viene in mente sto modellino che ho perso, e mi con tutte le domande che ho sbattuto la testa. Ma che testa, che capiamo, non ti capisci niente. Allora, siccome che sto modellista è bravo, e mico i disegni dei barchi di Pescantina, mi ho fatto fare due modelli da 1,70 m. Ah, addirittura. Addirittura. E ora ho un modello scheletrato, che è lo scheletro della barca, è tutto smontabile perché sarebbe per la sala didattica. Sì. Vabbè, è un modellino intero, con su alberi sovesi, una roba, un gioiello. E ma io ho pagato di scarsa mia. Ah, nessuno gli ha dato niente. Tu capito? E qua mi te spendi skate, già bianca da sommaro. Oh, ecco, questo è il destino di chi che fa le robe per farle sì, bene. Sì. No, ma allora come che ti dico, amico, rinunciare a tutti questi milioni che poi vuoi a darmi, perché ho detto no, qua in cimitero battaglia, anche se mi pare, che se mi nonno, che se do 300 barcari. De però, battaglia però. E battaglia sta il terzo porto fluviale come importanza. Aspetti un attimo che andiamo con un'altra canzone e poi torniamo da lei, eh? Va bene. Allora, ascoltiamo la terza canzone in programma, che è cantata da Fabio Concato, Fiori di Maggio, siamo in tema. Che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e col sole c'è, sei dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. E ti ricordi c'era un paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E sai, su dal cielo sei trovato e piano sei venuta giù, un passaggio da gabbiano ti ho posata su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno era, maggio c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare, e tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tienimi la mano. Torniamo in studio con il nostro amico, l'ultimo barcaro, Riccardo Cappellozza. Eccoci qua. Ecco, allora, tornando al discorso diciamo che dopo tanti anni ho cominciato ad avere dei riconoscimenti. E io ho fatto questo atto di donazione al mio comune e si è smentegare di dirmi grazie. Neanche grazie. Cosa? Praticamente sono orgoglioso di essere Nemo profeta in esatto, patria. Cosa non infrequente, diciamo sì, così. Sì, io so, se no ve lo perdonare. Però io dopo 30 dopo 30 anni che ero qua, insomma, tutti questi visitatori che erano entusiasti, perché in Ovenese uno pensa che abbiamo 3 quaderni delle firme, cioè 35 tesi di laurea fatte qua dentro, e io ho parlato per tutte e 5. Quindi te capisci se posso avere più soddisfazione così. Assolutamente, certo. Ma allora succede che viene un gruppo di 10 persone da Padova, un amico mi dice: ciao Riccardo, dice, tutti i professori trattimi bene. Beh, tratto bene tutti, mi no. E si che ho parlato per 2 ore e mezza, 2 ore e mezza parlo, e tutta sta gente che mi ringrazia, mi dà la mano, io via, basta, mi non so niente. E mi non sapeva che era una commissione. E era una commissione degli eccellenti di Padova. Addirittura. E allora, dopo un anno, avevo un invito da Padova. E insomma, praticamente nel 2008-2009 mi ha fatto padovano eccellente. Mamma mia! Ti pensa sto Varcaro? Nell'aula Magna Galilei e il Body Power. Vabbè, deve essere stata A presentare, capisci, mi sono restato come un same. Però mi ho scritto una bella lettera, perché capisci, uno che ha fatto la quinta elementare, io non mi ricordo le doppie, non mi ricordo tutte monare qua, famiglie tutte monare. E ora mi metto su così, dopo che dico ciao ticket che scarabuccia più di me, dico correggi me ste qua, perché mi faccio correggere ancora adesso, mi faccio correggere le parole, sì. Che mi ricordo mi doppia H doppia B, e mi sono Veneto, scrivo in Veneto, insomma, e mi trovo a essere Padova eccellente, cioè mi ha dato mucho di medaglie e di timbri, vabbè, no? Dico. E sta una roba straordinaria. Vabbè, insomma, immagino. Sta una roba. Ma non è mia finita qua. Allora vieni gli altri visitatori e tutti quanti ti fa complimenti. Viene solo un generale da tesoro che ha visitato il museo. Mi dice: signor Capellozza, io le faccio i miei complimenti, lei ha fatto un'opera meravigliosa. Beh, grazie, ho detto. E ora, però, dici, io guardando il suo museo, ho pensato a lei, vabbè, grazie, dico, perché tanti ti promette che vieni, chi fa, chi via, vuol dire, qui si da fuori, via Santo, ma via sto finito. Ma sì. Niente, dopo 8 mesi, sto generale mi chiama, Capellozza, io sono il generale, vabbè, dico, e mi dica generale, io adesso sono stato zitto fino adesso, se voglio parlare, però io avrei bisogno di conoscerlo meglio. Allora, signor generale, mi dica che vuole il mio curriculum. E siccome che un professore mi aveva fatto, no? Qualcuno ha visto cosa che ho fatto, e ora dice, tanta gente deve stare riconoscente con me, capisci? Quindi io ho portato il curriculum. Insomma, per contarti a breve, il 26 dell'11 del 1911, Napolitano mi ha fatto 2011. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Madonna, Dio, qua non stavo più dentro sui ebrei. Il culmine proprio del 2011. 2011, sì. Del 2011. Sì. Mamma mia. Cavaliere al Merito. Quando che trovo i miei amici, allora stati più per mettere d'armi del tia, mi sento, perché e se è una battuta, sono un'altra battuta. Sì. Certamente. Ma la semia finia qua. Allora cosa succede? Che io, per salvare questo museo, ho fatto tanti pensieri qua, dico, bisogna che mi metta in contatto con paesi europei. Allora quella signora inglese che ha visitato il primo museo, sì, che è la prima volta, siamo diventati amici, perché si è comprato un piccolo appartamento qua a Battaia, e ogni 2 mesi, 1 mese e mezzo a Viesò, no? E si è innamorato di questo museo, e mi portava solo gli inglesi dall'Inghilterra per visitare questo museo. Ti dico una roba storica, sei impegnata moralmente di aiutare questo museo. E questa donna è magistrato donna, è giornalista e scrittrice, non te dico altro. Quindi, pensa che personaggi che sono in contatto mica, tu capisci. E non è finita qua. Allora, abbiamo fatto, attraverso le conoscenze, che mi sono riuscito, ormai conosco mezzo mondo, e ora ho detto, capio, mi chiama, vago a Treviso a presentare il mio libro, L'ultimo dei Barcari. Sta gente sta entusiasta, no? E ora la signora dice, presidente, dice, guarda che questo signore lo vogliamo ancora qui a Treviso a parlare, perché questo è una cosa straordinaria. E invece mia, era come parlare del Rosario, che è la mia vita che comanda. Immagino che sia la sua vita, sì. E niente, non succede che l'associazione Civiltà dell'Acqua di Treviso, che è un centro internazionale, che ho messo al museo in mano e ori. Praticamente con le loro conoscenze, e ora siamo in contatto con tutta Europa. Allora, con la signora inglese abbiamo fatto gemellaggio con un museo di Stoke Bruerne in Inghilterra, va bene, che abbiamo fatto gemellaggio. Adesso che c'è la Francia, che è il museo Battellerie di Parigi, che vuole fare gemellaggio con noi. C'è il museo Bruerne, Benenvaart, che c'è a Rotterdam, in Olanda. Gli olandesi mi manda il calendario tutti gli anni, mi manda il calendario, cioè io ho un rapporto internazionale straordinario. Ormai quindi le battaglie a me non mi interessa più niente, no? Mai battaglia. giustamente. E pensa che l'anno scorso, no, in ottobre dell'anno passato, ho compiuto gli anni, mi si arrivai auguri dall'Inghilterra, dall'Olanda e da Germania, dal mio paese neanche grazie a nessuno. Niente, ma che cattivi. No, ma non sei che cattivi. C'è storia, c'è non storia. Sei cattivi, ho saputo. Sì. Siamo nave paesane. Sì, grandi soddisfazioni. Grande. Che fa con passione, importa. Allora, lei compie gli anni in ottobre? Sì, in ottobre io compio. Dai, ai quanti che magari facciamo gli auguri anche noi? Ah, beh, grazie. Quando sarà grazie, il momento. Grazie in anticipo. No, glieli facciamo. Comunque, con questa associazione Civiltà dell'Acqua siamo riusciti a fare un convegno internazionale al Castello del Cataio a Battaglia, un giorno, il 12 di ottobre. Il 13 di ottobre siamo andati al Palazzo dell'UNESCO a Venezia. Perché siamo in contatto con chi gente ha, insomma, che fa parte di questo comitato scientifico che è l'UNESCO di Venezia. E mi che era 8 paesi europei e mi ho parlato davanti alla comunità europea. Capisci quanto è importante che sono? Mamma mia, non si ferma altro. Basta, non si ferma altro. Allora ho parlato e parlo sempre della mia vita vissuta, delle storie di mio padre, eccetera. Pensa che mio padre mi diceva: piccolo, sappi che tuo padre restava tesacco e acqua de Adese. Perché ma era un rito, cioè che te resta impresso per tutta la vita, un barcaro battesacqua e acqua del suo canale, non mi hanno roba tutti no, eh? No. Infatti. Quindi le storie incredibili. Beh, insomma, in poche parole, ha finito di discutere, che ha parlato tanti, che ha parlato in diverse persone, alla fine mi chiama al bancone, dove c'è tutte queste turità, e mi presenta un bel foglio grande, e 50x40 di altezza. Mamma mia. Premio Internazionale Civiltà dell'Acqua Renzo Franzin, fondatore dell'Associazione Civiltà dell'Acqua. Esatto. Riccardo Capelosa ha ricevuto un premio internazionale, che questo, è giusto che la gente lo sappia, ed è più importante del Cavaliere della Repubblica. Ma in che senso? Perché questo è una premiazione culturale. Certo. Se abbiamo capito, certo. Allora mi raccomando, Cavuati, comincio perché gli da dare da lei, certo. No, noi le diamo no, del lei, se no mi viene mosca al naso. Ascolta, mi viene mosca al naso, ma lei ha tante cose da raccontarci, quindi sono sicura che anche in un prossimo futuro potremmo contattarla per raccontarci qualche altra cosa. Qua che non sempre, ma ti tengo te sei il discorso, no, non altri barcari, cioè quando che io sede di 7 anni, no. E ora sai, ieri il nostro vestito di stare in barca era un par di mutandoni neri che veniva a metà gamba e veniva fin da sola del Bonigo, vedo capio. E qui era il nostro vestito, ma tanto era nere e mutande. E tanto ieri non eri nuanti, perché in febbraio, già nuanti in barca, è il primo sole che scalda il legno, non andiamo più scalzi. Ma adesso non è più così. Un'altra, però. Sì, un'altra sento, vita, altri tempi. Sì, ma sento che bel moreto che era. Immagino. Pensa che mia moglie era marita perché ha detto che era il più bello. Ma pensa un po'. Sì. Adesso si chiama Pentia, ma insomma. No. Aspetti, spirito non manca. Aspetti un attimo che facciamo un'altra canzoncina. Dai che dopo finimo. Va bene. Ecco, adesso ci ascoltiamo la quarta canzone, che è intitolata Mi va di cantare, cantata da Louis Armstrong. Ciao, stasera son qui. Sarah Conte, mi senti felice, felice, perché bambina tu, più bella che mai, ricordo il nome, il giorno felice perché I love you all for us. Eccoci di nuovo in studio, signor Riccardo. Sì. Abbiamo approfittato un po' di lei oggi, eh? Un pochetto massa, ma non importa. Dai. Un pochetto massa. No, vorrei che bisogna camera ancora a registrazione. Sì, gliela mandiamo senz'altro. Ah, ecco. Ascolti, signor, però io spero che magari verso ottobre così ritorni ancora con noi o no? Ah, sempre. Ah, ecco, così mi piace. Allora, niente, non vogliamo. No, perché ora bisogno che altre premiazioni. Ecco, appunto. Ma allora non vogliamo stancarla di più. E noi la ringraziamo tantissimo di tutto quello che ci ha raccontato. È stato molto, molto bravo. No, adesso te mi offendi. No. Pensa, sento cosa che tengo da dire. Pensa che a mia amica inglese, no? Dai, spasso per battaglia, no? E ora si è affermato perché conosce tutti ormai la battaglia, sta signora, no? Perché viene qua, fa volontaria, fa corsi di inglese, addirittura te pensi che personaggi, no? E ora uno dice, parla con questa signora, dice, ma Riccardo è unico al mondo, eh? E ora che sei motivo di orgoglio, allora perché l'ho offeso? Io gli ho detto che è stato eccezionale. Va bene, dai. No. Guarda che mi sono sempre il barcaro di prima. No, lei è una gran persona. Grande. Lei è una grande persona. No, sento cosa che l'unica cosa che veramente godo nell'animo mio se che mi da puteo in su non sempre dà qualcosa. Beh, questa è una bella cosa. Pensa che mi, quando che ero in barca, baruffavo, cioè una delle barche più grandi della navigazione, no? E era la barca più grande che era battaglia nel 41. E ora te sai che era qui, che era queste barchette piccole, poveretti, miserabili, e ora che mancava sesso, che mancava secchia, e ora che imprestavo gli attrezzi miei, no? Sì. Ma dopo cosa succedeva? Si smettegava e la barca andava via e era sta secchia a bordo, ora mi pare pronto, ma sì, va, dico, abbiamo una nave, quando pure siamo venuti a comprarsi la secchia. Vabbè. Ma ecco, sì. Che mi da putere in su, sempre da mise 30 anni, che do tutto il mio sapere. Bene, ma io ho tante cose da chiederle ancora. Al prossimo giro la inviteremo qui. Metta a me e mi dici tutto, insomma. Certo. Benissimo. certo. Allora noi la salutiamo, la ringraziamo di cuore. Va bene. D'accordo. Ecco, grazie, signor Riccardo. Grazie, buona serata, Riccardo. Eccezionale. Salute. Ed ecco qui, ritorniamo in studio e per concludere, diciamo, la puntata. Vorrei leggervi, sempre nell'ambito della tradizione, alcuni scritti del mio conterraneo, mio concittadino Bruno Lorenzon. È uno scrittore che della tradizione ha fatto una ragione di vita. Dalla raccolta Il Conte Amoeri ed altri racconti, sempre di Piazza Editore, come diciamo il giovane e brillante editore nostrano, alcuni scritti, tra i quali un autobiografico, Io non la vedo così. Bruno Lorenzon, sotto sotto, era un rompiscatole e, quel che è peggio, se ne compiaceva. Quando gli pareva di non poter condividere un'opinione, anche se gli altri invece vi si accasavano come un gatto sul sofà, prendeva la penna e buttava giù alcuni periodi serrati con esemplare proprietà, trovando facile ospitalità in diverse pubblicazioni. Estraneo ad ogni consorteria politica, nei suoi interventi centrava assai spesso il bersaglio giusto, sia esso l'arroganza del potere o le umane debolezze o la tiepidezza dei cristiani, usando un linguaggio spesso ironico e toni concilianti, salvo che nei confronti degli uomini politici, verso i quali l'istintiva diffidenza non trova spesso motivi di attenuazione. Il suo rapporto privilegiato con il settimanale diocesano La Vita del Popolo è nato da un'affinità elettiva con il suo direttore, ormai un ex, Lino Cusinato, e con la linea redazionale di quel tempo. Nei pochi ritagli di tempo, l'articolista ha composto con impressionante facilità arguti versi e ironici pamphlet indirizzati a pochi amici privilegiati. Bruno Lorenzon. Sempre tanto un personaggio straordinario. Sì, veramente. Ma noi abbiamo dei personaggi straordinari. Sì, qua. Sì, decisamente. E di questo stesso personaggio volevo leggervi anche uno, se riusciamo, anche un paio di brevi scritti. Cala la cultura. Da notare la data di questa composizione, dalla Vita del Popolo del 12 agosto 1984. Però, cala la cultura. Esattamente. L'ultimo rapporto del Censis, che fotografa la situazione e l'evoluzione degli italiani relativamente ai consumi privati nel quinquennio 78-83, sottolinea il considerevole calo dell'investimento cultura, che si traduce tra l'altro in un minor numero di libri acquistati, solo parzialmente compensato da un modesto aumento della tiratura dei giornali, Gazzetta dello Sport in testa. Paradossalmente, in un'epoca in cui l'informazione riveste un'importanza fondamentale nelle relazioni sociali ed interpersonali, la gente legge meno di prima, malgrado il progredire dell'alfabetizzazione, talché si direbbe, altro paradosso, che la scuola produca analfabeti. Affermazione non del tutto strampalata se si fa caso alla qualità spesso scadente dell'insegnamento, anche e soprattutto negli istituti superiori, retaggio del 6 politico, ma anche dovuta alla demotivazione di tanti buoni insegnanti frustrati nelle loro aspirazioni ad una riforma della scuola che da decenni si attende ma che non arriva mai. 6 per tutti. Le cause di questa disaffezione alla lettura, che si traduce in impreparazione culturale e politica, sono parecchie, l'uso che si fa del tempo libero, per esempio alla ricerca di distrazioni ed emozioni inconsuete, dove, terzo paradosso, la prossimità di tante altre persone, ferie concentrate, esodi di massa, kermesse sportive, eccetera, isola in realtà sempre più il singolo, estraniandolo da una vera comunione col prossimo. Anche il costo dei libri, spesso non giustificato dalla veste tipografica, scoraggia dall'acquisto. Quanto almeno il proliferare di titoli e di autori estemporanei che durano lo spazio di un mattino. Ma la remora più grande è, secondo me, il perpetuarsi di una tradizione culturale che vuole i libri relegati all'ambito della scuola, obbligo da assolvere e da dimenticare. La scuola, quella dell'obbligo in particolare, ha indubbiamente grosse responsabilità perché non aiuta i ragazzi a formarsi un'abitudine alla lettura. Non so, sotto questo profilo, se l'introduzione massiccia di ausili audiovisivi nelle scuole del futuro supplirà degnamente alla ristrettezza della cultura e non darà piuttosto il colpo di grazia alla lettura e all'apprendimento personalizzato. Temo cioè che le fortune tecniche dell'informazione, esasperando i guasti prodotti dalla televisione lottizzata, possano declassare la cultura a livello di nozione e che soprattutto rendano impossibile o superfluo l'interpretazione dei fatti e dei moventi, che è alla fin fine l'aspirazione più diabolica di ogni dittatura. Bruno Lorenzon. Io devo dire che leggendo questo articolo pensavo fosse stato scritto ieri, perché tutto quello che si dice, la tecnica eccetera eccetera, certo. È di una sbalorditiva attualità. Non so se sei d'accordo su questo. Sì, infatti ti ho detto io, proprio è attuale veramente. È estremamente attuale. È a 30 la tecnologia, anni, cioè il pensare che la tecnologia possa sostituire la cultura eccetera è una emerita assurdità che naturalmente viene portata avanti anche da eminenti cattedratici con il fatto di fare dei corsi universitari solo in inglese, perché dice l'inglese è la lingua della tecnica, ma l'italiano è stato la lingua del Rinascimento. Ma difatti, e come dice il professor Luigi Cerantola, solo qui in Italia poteva nascere il Rinascimento. Infatti io dico sempre, qui usiamo tutti i termini inglesi, tutti cioè i termini, è comprensibile, so, ed è utile ed è necessario utilizzare degli inglesismi, utilizzare dei termini ma tecnici, ma non sempre, ma non ma tutti non abdicando alla nostra cultura. Appunto, e alla nostra lingua. La nostra lingua, che è meravigliosa. E io devo lingua. Dire che Bruno in questo caso mi ha, in ha modo precorso postumo, i tempi. Ha precorso i tempi, sì. È stata profetica addirittura sì. La cosa. Sì. E mi ha confermato nella mia, come posso dire, convinzione. Ma anche che nella mia. È stato un grande, diciamo, un grande, un precursore, una persona. Ma anche nella mia convinzione. Io non, a me non piace sentire solo weekend, ok, io tutte queste cose. Cioè, tutto va benissimo. Ma il rendere praticamente un bignami la cultura non ha quella profondità di introspezione, quella fatica dell'imparare che è fondamentale. Comunque... cioè imparare così in modo epidermico e superfluo, tant'è che appunto in un momento in cui l'alfabetizzazione dovrebbe essere di massa abbiamo, sembra, circa 6 milioni di analfabeti e 12 milioni di analfabeti di ritorno, totali o paratotali, quindi di ritorno, dopo aver imparato le scemenze eccetera che sono state propinate, anziché incrementare la cultura, stiamo scivolando verso un degrado culturale. Ma che ci sarebbe veramente un discorso lungo da che fare, non possiamo che fare, non possiamo fare stasera, perché ormai il però, nostro tempo... Però io ritengo che non sia inutile e non sia superfluo questa considerazione, superflua questa considerazione, anche perché potrebbe indurre magari qualcuno a ripensare delle convinzioni proprie. Insomma. Ci ritorneremo ecco, su questo argomento. Sì. E ringraziamo Addio naturalmente. Piacendo, sì. Abbiamo ringraziato il nostro amico Barcaro per le suggestioni. Beh, è stato stupendo, eccetera, è stato, mamma mia, veramente. E ringraziamo naturalmente tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Abbiamo per la ascoltatori pazienza, dappertutto. Per la pazienza con la quale continuano a seguirci. Abbiamo tanti ascoltatori, caro, e ascoltatrici. Beh, ci fa molto piacere. Ecco. Allora, salutiamo tutti con il solito tono affettuoso di sempre e a Dio piacendo, vediamo appuntamento domenica prossima. Ciao Antonio. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao a tutti. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.